Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, salve e ben ritrovate. Riprendiamo dopo la chiusura estiva di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e purtroppo non ci sono cose belle da raccontare. Intanto questa sera siamo in radio, Lucilla che sono io, Rosina che si sta disperando con i pezzi di giornali e Caterina che prova a fare la fonica in questo bailam di tutto il nuovo impianto. Mi fanno dei cenni? Che devo dire? Niente, quello che vuoi. Vado. Allora, quindi ben ritrovate a tutte, partiamo con alcune notizie che vi vogliamo, di cui vi vogliamo raccontare. E l'estate ha portato e continua a portare pessime notizie per quello che riguarda, e ci riguarda almeno, e violenti accadimenti. Vogliamo tornare con la memoria e la testimonianza ai fatti di Genova, anche se altri gravissimi fatti sono accaduti più di recente. Inizieremo quindi questa trasmissione con l'intervista ad una compagna che ha vissuto in prima persona la manifestazione del 21 luglio e ha voluto generosamente parlarcene. E proprio da questa testimonianza vogliamo partire per riattraversare i fatti accaduti in questi giorni. È evidente che brutalità e violenza hanno fatto da padrone in questo periodo, ma non sappiamo se a tutte sia evidente quello che è accaduto alle donne. Dire è sempre la stessa zuppa, in questo caso non è un semplice luogo comune. Alle donne, e poco se ne racconta sui giornali di luglio e agosto, oltre le botte, le manganellate, i calci, i pugni, non sono mancate le solite molestie sessuali. Ma si sa che gli uomini usano questo mezzo di controllo sulle donne. È controllo e accesso libero sulle donne. Il problema è non farlo passare inosservato. È un fenomeno di costume tanto consueto, invece, da non meritare menzione. Da qui la nostra scelta di ripercorrere la stampa di quei giorni neri ricercando notizie. Ed è stata una ricerca difficile, ve lo possiamo dire. E sappiamo che le testimonianze sono poche, perché poco interessano, ma anche perché le donne sono talmente abituate a subirle da tacerle per paura profonda o per vergogna. Noi usciamo allo scoperto e incominciamo intanto con la testimonianza e la registrazione, l'abbiamo registrata ovviamente, la testimonianza di questa compagna che, come abbiamo detto prima, generosamente ci ha voluto parlare della sua esperienza. Bene. Ok, allora siamo qui con una compagna che ha avuto l'esperienza di Genova e volevamo farle qualche domanda, volevamo fare una chiacchierata con lei sul suo vissuto, su come ha affrontato la manifestazione di Genova dopo il 20 e quindi il 21 appunto, e che cosa è successo là e tutto, può sapere tutto il suo vissuto di quella giornata. Iniziamo con una domanda, cioè con quali mezzi ti sei organizzata per andare a Genova? A Genova sono andata con un treno speciale organizzato dal mio partito, di Fondazione Comunista, insieme ad altri centri sociali. Era un treno strapieno, nonostante quello che era appena successo, la morte di Carlo Giuliani, tanta gente è venuta a partecipare. E comunque è venuta a Genova? È venuta a Genova più del previsto, per cui tanti sono fatti un viaggio in piedi per essere presenti a Genova. E quindi siamo arrivati a Genova la mattina alle 6. Avete fatto il viaggio di notte? Il viaggio di notte, carico di tensione dappertutto, perché insomma poi i fatti che venivano raccontati da altri compagni che già si trovavano su a Genova e ci avevano raggiunto con telefonato, che erano terribili. Terribili. Okay. Senti, chiaramente in tutte le manifestazioni c'è un momento di concentramento dove si ritrovano tutti quanti. Quando si è mosso il corteo, tu a che altezza stavi con il tuo gruppo? A metà corteo. Quindi non eri alla testa del corteo? No, non ero alla testa del corteo, ero a metà corteo e subito dopo c'erano quelli della FAI, della Federazione Anarchica, e comunque era a metà corteo. Senti, e in tutta questa situazione, quindi da quando sei arrivata alla stazione, la mattina alle 6, a quando hai raggiunto il punto di concentramento e le cose che hai visto da quando sei arrivata fino al punto di concentramento, quanta polizia c'era, dov'era la polizia e come si comportava, l'atteggiamento che aveva? La polizia era dappertutto. Noi quando siamo arrivati al quarto ovviamente non c'era nessuno. Dopo una mezz'ora che eravamo lì al quarto è cominciato ad arrivare tutte, cioè i carabinieri, tutto quanto. Quindi per tutto il tragitto che abbiamo fatto da quarto fino alla piazza dove c'era il concentramento era tutto pieno di polizia. Siete stati praticamente accompagnati dalla polizia? No, accompagnati, ci lasciavano andare. Sì, sì, però erano presenti dappertutto. Dappertutto. Era una città completamente militarizzata, dove era un clima proprio, ecco, surreale, perché una città completamente deserta, chiusa, dove l'unica persona che incontrai erano i manifestanti e la polizia. Quindi non c'era altri giorni, non c'era nulla. Senti, la manifestazione comunque a un certo punto è partita, quanta strada hai fatto e che cosa è successo? Allora, abbiamo fatto tutto un viale che porta, diciamo, poi sul lungomare dove poi appunto ci siamo fermati, e durante questo viale, che adesso non ricordo il nome del viale, e ci sono stati attimi di tensione, perché poi, diciamo, dove c'erano le traverse che davano sul viale c'erano dei gruppi di scioperi e alcuni gruppi, diciamo, alcune persone, diciamo, andavano ad un, diciamo, incontro alla celere per i fatti che erano successi il giorno prima, però insomma poi noi li richiamavamo e sono rientrati in corteo. Mentre correvano avanti, diciamo, alcuni dei black bloc, e noi abbiamo cercato, almeno lo spezzone nostro, ma anche altri spezzoni, di isolarli, di non farli entrare in corteo. Abbiamo fatto i cordoni, tutto quanto. Quindi voi li avete visti che cercavano di entrare nel corteo? Sì, sì, cercavano, però sono stati respinti dal corteo e quindi, diciamo, sono corsi avanti per proprio conto, nessuno è che... E come li avete visti voi? Suppongo che li abbia visti anche la polizia. Certo, cosa ha fatto in questa occasione? Niente, noi abbiamo fatto, e ci sono anche testimonianze di alcuni compagni che sono stati presi a male parole, insultati anche loro, per cui voglio dire, il fatto che dicono che i cortei non hanno isolato i venti è una grossa menzogna, perché almeno lo spezzone, ma non solo il nostro, abbiamo fatto tutto per entrare dentro il corteo. Bene, e quindi quando siete arrivati sul lungomare? Sul lungomare ci siamo fermati, premetto che era una giornata caldissima, quindi erano intorno alle 2 del pomeriggio, e siamo rimasti fermi perché più avanti a Piazzale Kennedy c'erano appunto lì gli scontri e le prime cariche della polizia. In pratica gli scontri appunto, diciamo, della polizia, e con la polizia hanno poi caricato subito il corteo, dopodiché il corteo si è riformato, ha proseguito ed è stato di nuovo spezzato. Noi nel frattempo eravamo sempre fermi su questo lungomare, quando da circa mezz'ora ci girava da sopra un elicottero, non capivamo che cosa fermo sopra di noi. E diciamo che la situazione poi, ecco, questo lungomare dove da una parte c'era una zona invalicabile, un droglione, sicuramente una zona militare, poi c'era via Rivile, però l'accesso ai stabilimenti era inaccessibile perché c'era il parapetto che era massaggio almeno 7-8 metri insomma. di altezza. Quindi da questo viale per accedere sulla spiaggia non era accessibile perché era tutto chiuso, ed era tutto chiuso, gli accessi alle scale erano gli accessi chiusi. Alle scale perché chiuse. Voi che avete fatto, tu che hai fatto, cercato di scappare, perché quando abbiamo sentito il primo sparo la gente insomma è cominciata a scappare. Io ho cercato di andare verso appunto il mare e non solo io, anche altre persone, e ho visto che però era una cosa impossibile perché ci saremmo sfracellati, perché bisognava... Tu hai provato a scavalcare? Sì, ho provato a scavalcare, ma c'erano da vedere scavalcare su delle cabine e poi dopo anche su, quindi era rischioso. E purtroppo io ho avuto una crisi di panico con una frequenza altissima cardiaca, e a quel punto ho cercato di rientrare poi nel corteo, quando c'era invece il camioncino del General Social Forum con il medico. Sono salita sopra, mi ha assistito questo medico del Genoa Social Forum, pare insomma c'avevo questa frequenza altissima, avevo 130 di frequenza cardiaca, e nel frattempo cominciavano le cariche al corteo della polizia. Quindi tu sei stata assistita da questo medico? Sì, da questo medico, però non è riuscito, diciamo, nonostante mi sia dato dei tranquilli. Sì, non è riuscito a calmarmi? No, c'avevo sempre questa frequenza molto alta, dopodiché io ho deciso di tornare nel corteo, ma ormai il furgoncino era andato avanti. Il tuo furgoncino, quello del General Social Forum, era andato avanti, per cui il mio spezzone l'avevo perso e non riuscivo a raggiungere nessuno nei telefonini perché non prendevano. E questo medico dice: guarda, non sei in grado adesso di scendere, cioè stai troppo male. Mi ha accompagnato via un'ambulanza, salito questa ambulanza, invece questa ambulanza era venuta a prendere un ferito, e quindi hanno chiamato un'altra ambulanza e poi sono stata portata a San Martino all'ospedale. Ma quindi sei andata in ospedale? Sì. Allora, quindi diciamo che la parte hai dovuto abbandonare, hai sì. abbandonato la manifestazione, quindi sì. non hai più potuto assistere a niente. No, perché in quel momento diciamo c'erano le cariche, quindi diciamo io ho fatto in tempo questo medico a farmi attraversare il corteo e a portarmi sull'ambulanza. Quindi di fatto la manifestazione quindi era terminata comunque. Sì, era terminata, c'erano solo gli scontri. E quindi allora però qui arriva una parte interessante, una parte di cui tu ci hai parlato e che noi vorremmo che ci riferissi. Che ci riferissi, perché è una testimonianza secondo noi molto importante, che è quella di che cosa è successo all'interno dell'ospedale, che cosa hai visto tu andando in ospedale. Quanto tempo sei stata grosso modo? Sono stata diverse ore in ospedale. Più di tre ore? Più di tre ore, sì. Più di tre ore. Perché appena sono arrivata, mi hanno assistito, ho trovato un personale medico e paramedico. Non paramedico. Infermieristico. Devi scusare questo termine che non fa da medico. E, diciamo disponibile in un altro lato, insomma, anche se poi invece ho sentito da altri racconti in altri ospedali che cose sono state dappertutto uguali. Lì no, a San Martino devo dire c'era un personale sia medico che infermieristico disponibile e tutto quanto. Appena sono arrivata, dopo circa 10 minuti che ero lì, hanno cominciato ad arrivare decine di ambulanze con feriti provenienti da quella situazione che tu hai lasciato dal corteo, tutta gente proveniente dal corteo, per cui signori di 30-40 anni che tutto erano fuorché black box, tutti italiani, per cui erano stati legati proprio al corteo. E la maggior parte poi ragazze, donne, in maggioranza erano ragazze e donne, per cui questo fatto è anche l'attenimento che la polizia ha avuto proprio nei confronti dei soggetti più deboli. Perché a questo punto possiamo dire, no, che è noto che le donne in genere sono terroriste, sono guerrigliere, sono violente, armate fino ai denti, eccetera, per cui la polizia e i carabinieri hanno dovuto, guarda, difendere la città di Genova. Cioè, tutte le ragazze che sono arrivate là, ma anche donne della mia età, insomma donne, io ho 40 anni, per cui donne della mia età, tutte erano violente, erano tanta gente che io avevo conosciuto. In che condizioni sono arrivate queste donne? Manganellate, pistate, con sangue in testa da tutte le parti, e non erano assolutamente, ecco, ho detto, la maggior parte erano donne e ragazze. E dopodiché appunto sono arrivati altri compagni, tanti erano proprio dello spezzone del partito, perché avevo conosciuto sul treno la sera prima. Sono arrivati altre persone, di cui uno ad esempio lacrimogeno, è proprio arrivato in testa, cioè perché la polizia ha sparato proprio in testa. Quindi ad altezza d'uomo? Sì, ad altezza d'uomo, anche perché da un elicottero hanno sparato, perché non si capisce da dove, perché di qua c'era il muraglione e c'era questo elicottero, per cui hanno sparato dall'alto, cioè la polizia non si è vista che sparava, sono arrivati solo i lacrimogeni in pratica, per primi. E quindi poi sono rimasta lì, perché poi sono uscita a rintracciare un compagno che è venuto lì all'ospedale, e però siamo dovuti rimanere lì perché tutto intorno erano scontri dappertutto. Tant'è vero che poi noi avremmo dovuto raggiungere la stazione di Quarto per riprendere il treno, però nel frattempo ci dicevano da Quarto c'erano degli scontri, per cui siamo rimasti là per in ospedale. Quando poi siamo riusciti ad andare via dall'ospedale e abbiamo raggiunto la stazione Quarto, purtroppo il treno per Roma già era partito. Siamo stati 2 ore fermi nella stazione di Quarto e poi ci hanno rimandato a Brignole, dove sopra la stazione c'erano altri scontri. Arrivati lì a Brignole, è arrivato il treno speciale in partenza per Roma, ma non siamo riusciti a prenderlo per quanta gente c'era. E quindi diciamo che io ho preso un treno che andava a Firenze, e nel frattempo su questo stavamo lì alla stazione, scendeva giù la Celere con fare minaccioso, era un clima di terrore. Infatti, nel puro senso infatti, voglio dire, cioè, la manifestazione si era svolta altrove, quelli erano ed era mezzanotte. Esatto, era mezzanotte, quindi presumibilmente tutte persone che stavano cercando di tornare a casa. Non era giustificato questo. No, non era, questa invece scendeva nonostante tutto a cercare, non so neanche io che cosa cercavo, comunque era proprio una cosa di terrore, volevo proprio terrorizzare. E poi quando sono salita sul treno, e sono dei compagni di un collettivo di Firenze che ci dicevano che in quel momento c'era l'assalto alla scuola Diaz, e che avevano rotto tutti i computer, tutto il centro di documentazione del Genoa Social Forum, che la polizia aveva rotto. E questo era intorno a mezzanotte e mezza. Quindi, se vogliamo tornare un attimino sul clima che hai vissuto, si è capito dal tuo racconto, ma è un clima che non ha uguali, nonostante io abbia fatto molte manifestazioni anche negli anni caldi, 76-78, nulla a che vedere con quello che è stato Genova. È stato terribile, il clima, ho detto, un clima surreale, una violenza inaudita da parte della polizia che non avevo mai visto prima. Senti, ma hai potuto parlare con qualche compagna in ospedale? Che cosa, qualcuna ti ha detto come è stata picchiata? Sì, ad esempio una compagna è stata presa, malmenata, e poi sono scappati via la polizia, andando a rincorrere altre persone, menandole e lasciandole sul marciapiede. Questo è stato il carico. Quindi questo le donne raccontavano? Sì, queste le donne. Un'altra invece che è uscita fuori da un portone. Ecco, una mia amica ad esempio è rimasta chiusa in un portone tante ore ed ha avuto l'ospitalità da una famiglia genovese, perché questo, insomma, bisogna dirlo, che tante compagne e compagni sono riuscite a trarsi in salvo perché i genovesi hanno aperto i portoni, per cui c'è stata una solidarietà da parte della città, perché hanno aperto tanti portoni. Questa compagna ad esempio è rimasta a casa di questa gente fino alle 8 di sera. Penso un po', meno male che solidarietà funziona ancora. Devo dire che poi la gente di Genova, insomma, tanta gente ha aperto i portoni. Ecco, un'altra cosa che sicuramente i feriti sono molto di più rispetto a quelli poi repertati, perché quando è a San Martino tanta gente non è stata repertata come feriti dagli scontri, ma feriti da cause accidentali. Questo perché? Sono cascati sul marciapiede? Sì, alcuni hanno fatto, i medici hanno fatto refertare questo. E questo è stato però un atto di, diciamo, io lo vedo un atto di generosità, diciamo, potrebbe essere di doppia interpretazione, però insomma, come l'ho vissuta io lì rispetto, ecco, a un paio di compagni che sono venuti là all'ospedale, che hanno avuto un altro referto, ho visto un fatto, ecco, di generosità, perché di fatto poi se tu hai ferita negli scontri, venire in qualche modo schedato e classificato, ecco. Quindi c'era la possibilità che la polizia venisse a ricercarsi, sì, come... appunto, e invece, diciamo, i medici stessi repertavano altre cose. Allora, dopo tutto quello che hai passato, ne è valsa la pena di stare a Genova? Sì, tanto più alla luce di quello che sta succedendo adesso, quello che è successo negli Stati Uniti. Ritengo che la crescita di questo movimento ed essere contro la globalizzazione del capitalismo sia l'unica strada per un mondo diverso. Ti ringraziamo moltissimo e approfitteremo eventualmente di te per altre documentazioni, speriamo più piacevoli di questa, d'accordo? Carta, cuori, unghie, memorie bruciati in fretta come nella camera di scoppio di un motore, su una forca o con le fucilate, con la garrotta o con la sedia elettrica. I vivi non ricordano lo sguardo, i vivi non ricordano lo sguardo di Nicola Sacco, morto in vano, Bartolomeo Vanzetti, morto in mano, Giacomo Matteotti, morto in mano, Giuseppe Pinelli, morto in mano. E più neri di prima sono ritornati, lo stesso cognome Mussolini. Usano un televisore come un cavallo di Troia, entrano nel futuro dei nostri figli, così come c'entrarono nel 920, per ricordarci che un giorno a Brescia sono morti in vano, a Ustica sono morti in vano, a Bologna sono morti in vano, a Marzabotto sono morti in vano. Perché i vivi non ricordano, si è ammutolito il mio strumento quando ha capito che il popolo italiano di mare, di cielo, di mare, cielo e terra deve saperlo, che ci portano alla guerra. Guarda nei libri, devi ricordarlo, ogni quanto tempo in Europa c'è un conflitto, dove madri, padri, figli e figli sono morti da dimenticare. Perché i vivi non ricordano, perché i vivi non ricordano gli occhi dei ti rispetto là. Hasta siempre. Giorgiana Masi. Hasta siempre. Giuseppe Palumbo. Hasta siempre. Grigoris Lambrakis. Hasta siempre. Torino Carnevale. Hasta siempre. Gaetano Brescia. Hasta siempre. Walter Rossi. Hasta siempre. Yolanda Pallanini. Hasta siempre. Ines Versailles. Emiliano Zapata. Hasta siempre. Pietro Greco, detto Pedro. Hasta siempre. Camillo Cienfuegos. Hasta siempre. Stephen Biko. Hasta siempre. Patrice Lumumba. Hasta siempre. Rina Fredullio. Hasta siempre. Ernesto Che Guevara. Hasta siempre. Gennarino Capuozzo. Hasta siempre. Giovanni Passanante. Hasta siempre. Viole De Ciglia. Hasta siempre. Duccio Galimberti. Hasta siempre. Martin Luther King. Hasta siempre. Malcolm X. Hasta siempre. Oscar Romero. Hasta siempre. Vincenzo Baiano. Hasta siempre. Anna Maria Viole. E la bella canzone che abbiamo ascoltato insieme era Perché i vivi non ricordano di Daniele Sepe. In questo caso abbiamo fatto una piccola eccezione in deroga alla nostra scelta di mandare sempre comunque musica e pezzi scritti dalle donne. Ma continuiamo comunque con la nostra trasmissione e vi vogliamo leggere la testimonianza riportata sull'Unità del 23 luglio del 2001 dall'inviato Piero Sansonetti. Diciamo la testimonianza di un medico, una testimonianza rilasciata durante un'assemblea del Genoa Social Forum. E, tra le tante violenze raccontate da questo medico insieme ai vari episodi di inseguimenti, pestaggi della polizia eccetera eccetera, abbiamo scelto per voi un episodio che riguarda precisamente delle donne e ve lo leggiamo integralmente così come è stato riportato dal giornale. Mentre il corteo delle tute bianche risaliva verso lo stadio Carlini perché era stato respinto dalla polizia a Brignole, c'erano due ragazzine un po' ingenue che camminavano piano e discutevano tra loro di induismo. Capite di induismo? Pensate che pericolo per il G8. All'improvviso sono arrivati i poliziotti. Una delle due è scappata, l'altra non c'è riuscita ed è stata battuta con i manganelli, poi presa a calci in pancia, ma lei è stata brava, si è rialzata ed è riuscita a sgusciare e a correre via. L'hanno inseguita, l'hanno raggiunta, di nuovo l'hanno buttata in terra e ancora calci sulla testa, sulle braccia, sul costato, sulla faccia. Lei è riuscita a scappare di nuovo, l'abbiamo raggiunta noi per portarla in salvo, ma era in preda al panico, aveva paura anche di noi, non voleva essere toccata, strillava e piangeva disperata. L'abbiamo calmata. Le abbiamo messo 14 punti per fermare la ferita più grave in faccia. Le si vedeva l'osso dello zigomo. Sabato pomeriggio, invece, in via Corridoni, tre ragazzine se ne stavano a chiacchierare sedute su un muretto. È arrivata la polizia. Loro hanno provato a scappare, ma le hanno prese e le hanno scaraventate giù dal muretto, in un cortile, un volo di 3 metri, fratture alle gambe e alle braccia. Poi la polizia ha cercato di entrare nel cortile, voleva picchiarle ancora, chissà, oppure arrestarle, però il proprietario della casa è stato più rapido di loro, è riuscito a trascinare nel suo appartamento le ragazzine e si è barricato. La polizia non è riuscita ad entrare. Volete altri episodi? Due medici e due infermieri sono stati riempiti di botte mentre erano chinati su un ferito. Ad una delle ambulanze, con una grande croce rossa, la polizia ha sfondato il vetro e hanno gettato dentro un lacrimogeno. E questo, insomma, non è assolutamente possibile commentare questi episodi, che ovviamente si commentano da soli e sottolineano la violenza che c'è stata da parte delle forze del disordine in quei giorni. sempre dall'Unità, questa volta del giorno dopo, del 24 di luglio, ancora episodi di grande civiltà da parte della polizia, come dire. E ancora una volta vi leggiamo uno stralcio. Ancora il San Martino, pronto soccorso. Lascio i poliziotti da una parte e percorro il corridoio dall'altra. Salgo, giro a caso, incontro un medico che mi spiega. Così posso salutare una ragazza. Non ci sono accuse per lei. È libera e ne avrà per pochi giorni, malgrado il gran cerotto in testa e la guancia arrossata. Mi fa segno anche alla spalla. È spagnola, mi dice il nome e racconta della sua notte più brutta. Eravamo appena entrati, racconta la ragazza. La scuola ce l'avevano indicata alcuni ragazzi. Non avevamo tende né sapevamo dove andare. Con alcuni altri ci eravamo sistemati in un'aula vuota. C'erano soltanto una fila di banchi a un lato e qualche sedia. Qualcuno mangiava. Io mi sono sdraiata sul sacco a pelo, faceva caldo. Poi un colpo secco. La porta è stata spalancata. Sono entrati i poliziotti e hanno cominciato a picchiarci, così a caso, con i manganelli. Ci hanno spinto da un lato. Uno ha sollevato un banchetto e ce lo ha scagliato contro. Adesso finite di fare casino, imparate. Urlavano insulti che non capivo. Mi sono vista il sangue addosso e mi è venuto da piangere per il dolore. Poi mi sono lasciata andare per terra. Quelli ogni tanto prendevano, di mira qualcuno, lo pestavano e ridevano. Poi sono arrivati i medici che mi hanno ripulito la faccia. Poco dopo mi sono sentita sull'autoambulanza, mi sono risvegliata qui. Vengo dalla periferia di Barcellona. Il mio pullman è già partito. Spero che non succeda altro. Antonio knows that pleasure is the child of pain and lost in New York. Ed è ancora l'Unità, questa volta del 27 luglio, si tratta di un articolo di Adriana Comaschi che si intitola «Le donne a faccia in giù, dicevano, ora vi stupriamo». «Ci dicevano che non saremmo più usciti, dicevano, tre dei nostri sono morti, dobbiamo pareggiare con voi». Arianna Subri vuole raccontare la caserma di Bolzaneto e il comportamento dei poliziotti. Una ragazza arrivata a Genova per fare foto, 25 anni, studentessa dell'Accademia di Belle Arti a Firenze, si ritrova malmenata, minacciata, lontana da tutto e da tutti, da venerdì alle 17 fino alle 13 del lunedì seguente. Ecco come l'hanno arrestata. Mi trovavo nel bar Caboto dietro Piazza Alimonda, dovevo andare in bagno. Nel locale eravamo una quindicina, io ero per conto mio, non conoscevo nessuno. Ad un certo punto il bar si è riempito del fumo dei lacrimogeni. È arrivata la polizia che ha sbarrato l'ingresso e ci ha detto di uscire tutti. Mi sono fatta avanti, ho pensato al massimo mi sequestrano i rullini. E invece un poliziotto mi ha trascinato fuori per i capelli con altri tre. Un altro ha buttato in terra la mia macchina fotografica. Mi hanno sbattuto faccia al muro e poi scagliato verso un cordone di poliziotti. Qualcuno mi ha tirato un pugno in faccia. Sono caduta e sono partiti pugni e calci. Mentre mi schiacciavano una mano con la scarpa, mi chiamavano puttana. Uno chiedeva, dimmelo ora che cos'è il G8, dimmi che cos'è la globalizzazione. Io e gli altri tre siamo finiti sul marciapiede, la testa schiacciata a terra. Dopo un po', in due, mi hanno scortato al cellulare. Davanti c'erano molti poliziotti in borghese. Mi sono rivolta ad uno di loro, non c'entro niente, ero soltanto andata in bagno. Ha risposto, ah, eri in bagno, a fare i pompini, poi ci fai vedere come si fa. Mi hanno perquisito, nello zaino avevo i rullini. Quando li hanno visti il commento è stato «Questi te li infilo su per il culo». Ero sotto shock, continuavo a singhiozzare, tanto che facevo fatica a respirare. E continuiamo sempre dal pezzo di Adriana Comaschi, continua la testimonianza. Siamo arrivati a Bolzaneto. Nella mia cella c'era un andirivieni di ragazze, tutte costrette a rimanere sedute faccia al muro per 10 ore. Non ci hanno dato da mangiare né da coprirci. All'inizio chiedevamo di andare in bagno, poi abbiamo visto che gli agenti di polizia penitenziaria ci picchiavano durante il tragitto. Più forte le ragazze che avevano i capelli con i dreadlock o i piercing. E chi aveva dei piercing è stato costretto a toglierseli, anche con la forza, strappati. Allora niente bagno. Ma loro venivano a dirci, qualcuno deve andarci per divertirsi ancora. Così, quando mi è venuto da vomitare, per paura, ho vomitato nella stanza. A noi donne, molti dicevano che ci avrebbero stuprate entro la notte. Alle 3 del mattino ci hanno rimesso sul cellulare, dopo aver costretto gli uomini a fare il saluto fascista, senza dirci dove andare. Le uniche risposte erano: non rompere, hai distrutto la città, ci sono 3 dei nostri morti. Avevo paura. Mi hanno portato nel carcere di Alessandria, non ci hanno fatto firmare nessun verbale. Per noi c'erano delle restrizioni speciali. Sabato mattina ho chiesto di far chiamare la mia famiglia, ma mia madre è stata avvisata solo domenica alle 22. Le hanno detto che ero ad Alessandria, nient'altro. Arianna sporgerà denuncia. Secretly di Scancarensis, in segreto. Trying hard to think pure, bloody hard when I'm raw. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lusty, your heart. Thank you.